Però dico che se anche il Papa si scaglia contro gli omosessuali, forse quello che ormai è risaputo, l'omofobo è un omosessuale represso. Sì, sì, ma questo lo, lo dovrebbero avvisare, lo dovrebbero sapere. Per che me, sia un, cioè, per, si scoprono da sé. Allora, lo, è l'omofobo il, che sia omosessuale o lesbica repressi, ma sono un danno per la società. Extra. Ed è questa la frase incriminata che ha portato all'esclusione di Aldo Busi da tutti i programmi della Rai. Uno dice chi se ne frega, perché vabbè, Aldo Busi è escluso, saranno affari suoi. Però dopo il caso Morgan c'è quest'altro caso. Se uno è un po' sopra le righe, e in questo caso certamente Aldo Busi è stato sopra le righe, scatta l'esclusione. C'è un altro ragionamento da fare, lo facevamo prima, ed è questo. Insomma, la Rai ha preso Aldo Busi e l'ha preso perché Aldo Busi è Aldo Busi, non è che l'ha preso perché Aldo Busi è una così un bravo ragazzo, è un sacrestano. No, Aldo Busi è quello che vi abbiamo fatto ascoltare prima, cioè quello fortemente anticlericale, eccetera eccetera. Bene, ipocrisia, almeno secondo me, eh. Irene Pivetti, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Ha sentito? Sì, sì, ho sentito, sentito. Che dice lei? Ah, dico che, certo, giusta osservazione, la Rai, Aldo Busi l'ha preso e l'ha preso proprio perché fosse un personaggio di rottura. Però esiste una specie di, come dire, di convenzione non scritta ma rispettata di solito da tutti, che la religione la si lascia fuori da queste cose. Cioè alcune cose non si toccano. La religione. A me piacerebbe che fossero qualcosa di più che oltre la religione, cioè i valori più importanti fossero tutti rispettati, le persone fossero rispettate, eccetera, eccetera. Però la religione di chiunque, quindi in questo caso... Sì. Chiaramente il Papa, la religione cattolica, ma la stessa cosa vale ovviamente per qualsiasi altra religione. Se avesse detto parole equivalenti su, non so, su un rabbino, su un imam, ovviamente saremmo tutti profondamente offesi, perché questa... la religione è una cosa che si rispetta. Anche chi, tra l'altro, io devo dire, la grandissima maggioranza delle persone che non credono rispettano comunque il sentimento religioso. Qui stiamo facendo anche un attacco diretto alla persona. Vale, guardi, al di là delle parole che sono state dette, del concetto sottostante, che per carità, ma è proprio l'idea di mettere in mezzo in maniera così aggressiva, la volontà di offendere, insomma. Che c'è. Però più che... mi scusi un attimo, qui in realtà non c'era un'offesa alla religione cattolica, no. C'è una considerazione sull'omofobia, certamente molto pesante perché c'è un riferimento diretto al, al però... pontefice. Questo mica non è un dettaglio, cioè non è che se l'è presa, per dire, con un sacerdote, già mi disturberebbe molto, perché sì, io credo che l'uomo di Dio va rispettato a prescindere, ma il Papa è come dire, è Gesù sulla terra dal punto di vista, quando parla ex cattedra, eccetera, cioè è una figura di assoluto riferimento centrale nella vita di qualsiasi cattolico.